Radio Onda Rossa, data 7.900 MHz nella modulazione di frequenza. Così eccomi qui, cari compagni, cari compagne, cari amici, amiche, ascoltatori e ascoltatrici. Sto per annunciarvi la nuova trasmissione di Altroverso. Oggi è sabato 10 dicembre, si sta avvolgendo anche al termine, sono le ore 23 e 2 minuti proprio in questo istante, insomma un'altra ora, e poi naturalmente andremo a finire all'11 dicembre. Rigorosamente in diretta qui da Radio Onda Rossa, chi vi parla è Nino H DJ Misk per la musica elettronica del sabato sera di questa radio, appunto con Altroverso. Vi ricordo, per interagire con la trasmissione, 0649 1750, il numero di telefono, Altroverso @ondarossa.info, la mail www.ondarossa.info, il sito da cui ascoltare lo streaming, e poi naturalmente il sito ufficiale di questa trasmissione, che è www.altroverso.net. Mando i vari saluti in particolar modo a Gabriele, Lorenzo, Maurizio, Martis, grande saluto, grande abbraccio, e poi anche a signorina, insomma lo sa lei, ha capito, e a Betta, insomma a vari amici che mi ascoltano tramite naturalmente lo streaming, ma anche tramite la frequenza, quella classica 87.900 in FM. Direi che sono veramente pronto per partire con questa puntata numero 691. Alzate il volume, slacciate le cinture, questo è Altroverso. Radio Onda Rossa ti invita all'ascolto di Altroverso. Dalle 23 alle 6 del mattino. News, classifiche, recensioni, live e DJ set da tutto il mondo. Altroverso, il meglio della musica elettronica. Prima selezione di questo sabato sera dall'Apparel Music abbiamo ascoltato Toki featuring Christian Casarano con questa Another Way. Siete all'ascolto di Radio Onda Rossa, sta girando la musica di Altro Verso che vi accompagnerà fino a domani mattina, esattamente fino alle ore 6 della mattina, con naturalmente le migliori selezioni di musica elettronica sempre qui su Onda Rossa. Adesso ascoltiamo V-Section con Feels Right su Etichetta Per Casa. Feels Right, su etichetta Per Casa, su naturalmente il ultimo lavoro di V-Section, sempre musica stilosa, musica veramente di classe per altro verso. Arriva adesso dalla Full Scale Music Martin Heider con Multisurface. Multisurface per Martin Heider su etichetta Full Scale Music. Colgo l'occasione per mandare anche un saluto a Pipino e all'ascolto, insomma passa una grande serata, anche se so che il periodo non è dei migliori, ma comunque andrà sicuramente molto meglio. Andiamo avanti con la musica elettronica di altro verso, ma prima voglio un attimo parlarvi di mercoledì prossimo, Lettere Caffè, iniziativa dove metterò un bel po' di musica dalle ore 22 fino alle 2 di notte. Il luogo si trova esattamente via San Francesco a Ripa, esattamente zona Trastevere. Lettere Caffè, ingresso totalmente gratuito, ci sarà altro verso Selecta con DJ Misk e con naturalmente tutte queste selezioni belle e stilose direttamente dalle mani e dalla mente proprio dello speaker di altro verso. Adesso ascoltiamo Riccardo Risa con I'm Lib nella versione remix di Orange Muse per la Colorful Records. Bella dalla Colorful Records, Riccardo Rizza con Amlib nella versione remix di Orange Muse. State sempre ascoltando Altro Verso, altri suoni, altra musica elettronica qui solo su Radio Onda Rossa, la radio libera di Roma e provincia dal 1977, sempre qui insomma a trasmettervi la musica underground e naturalmente le informazioni libere da ogni coercizione, da ogni insomma imposizione dall'alto. Adesso arriva Area Negro con It's Love and Love nella versione remix di Philip Butter su etichetta B Pitch Control. Thank you. veramente grandissimo Philip Butter che remixa questa It's Love Love di Eren Gru, inclusa in questo 12 pollici nuovo per la BP Pitch Control, in cui appunto troviamo i remix di Philip Butter ma anche di Kiki, appunto così era Eren Gru. E noi siamo sempre in stile elettronico underground, sempre con la musica di Altroverso. Adesso ascoltiamo Phonic Lab featuring Rapa con Ticket to Tokyo After Mix su Electronic Pets. Erano Phonic Lab insieme a Rapa con Ticket to Tokyo nella versione After Mix su Electronic Pets Records. Ancora avanti con la musica novità per questo sabato 10 dicembre, arriva dalla Movida Records Luke Ringhaisen con Moody. Questo è Mattias Kaden che remixa appunto la traccia di Luke Ringhaisen. ottimo Mattia Skaden che remixa Moody di Luke Righesen su Movida Records. Sono le ore 23:32, rigorosamente in diretta qui da Radio Onda Rossa all'ascolto di Altroverso con DJ Misk. Adesso mi fermo un attimo, ci sono esattamente un minuto e mezzo di spottini e poi riprenderemo con la seconda parte di novità di Altroverso, che così ci condurrà fino alle ore 24. Mi raccomando, non mollate, rimanete sempre qui su Onda Rossa. Ancora una lunga notte insieme allo Acrobax, Capodanno 2012 a sostegno di Radio Onda Rossa. Saranno con noi nella Yard Mamma Marias e Torpedo Sound Machine. Benedetto che ha inventato il letto, armono non c'è da più bella cosa. Nella Room 70-80-90, Disco Inferno e nel Tunnel le migliori selezioni di musica elettronica. Allora, tutta la notte allo Acrobax a via della Vasca Navale 6 e naturalmente dalla mattina del 31 presidio sotto il carcere di Re Bibbia, perché di carcere non si muoia più, ma neanche di carcere si viva. '1919, Eunice Randall comincia a fare radio. 2011, il martedì autogestito da femministe e lesbiche continua a fare radio. E a volte esce dagli studi. Sisters on Air. Domenica 18 dicembre all'Ula Hop. Ingresso 5 euro con CD in regalo. Sisters on Air. Taiko no Koe Trio. Francesca Fabris. Elisa Lu. Eli Natali. Video Camin Sterna. Giulia Nania. Elena Paraschevà e Silvia Balossi. Make Art. Lucia Proia, Alessandra Liberato. DJ set Sisterhood is Blooming and Pink Glow. Domenica 18 dicembre dalle ore 18 alle 24 all'Ula Hop, via dei Magistris 91 al Pigneto. Sisters on Air. Devi sentire Luna, assecondare la sua energia, sincronizzarti e poi lasciarti andare. Non hai bisogno di vedere. Non pensiate a voi, potete fermare tutto questo. Per tutta la notte, senza interruzioni, Altroverso. È musica pura, al 100% in vinile. Così riprendiamo con le selezioni musicali di Altro Verso, solo Electronic Underground con DJ Misk fino alle 6 della mattina, questa prossima mezz'ora, ovvero quella che ci condurrà fino alle ore 24. Ascoltiamo le prossime novità underground della settimana per questa trasmissione, che vi ricordo naturalmente mette le sue informazioni nel sito personale www.altroverso.net, sito da cui naturalmente potete leggere la playlist, ascoltare la web radio online 24 ore su 24 e anche riascoltare la trasmissione tramite il podcast, appunto nella sezione podcast. Vi ricordo quindi il sito ufficiale www.altroverso.net. Questa era Ensan Svai con Jasmine nella versione The Night Remix su etichetta Ellie The Cat. Senza fermarci andiamo avanti, torniamo sulla label B-Pitch Control per ascoltare Skinner Box con Mary of Exeter. Questo è sempre Radio Onda Rossa, vi ricordo 0649 1750 il telefono, ondarossa.info invece il sito. We'll be right back. E questa era Mary of Exeter su BPC Control per Skinner Box. Il prossimo sono Glanz & Ledua con Morgan's Kurz Nakalb, nella versione remixata da Vita Mais su Patro de Musica. Sono Glanz & Ledua con la versione remixata da Vita Mais sull'etichetta Patro de Musica. Adesso vi parlo di Lettere Caffè. Mercoledì prossimo in via San Francesco a Ripa mi troverete lì a selezionare la migliore musica elettronica underground di Altroverso dalle ore 22 fino alle 2 di notte. L'ingresso è totalmente gratuito per gli amici e le amiche di Altroverso. Vi ricordo, mercoledì prossimo dalle 22 alle 2 di notte, Lettere Caffè, Altroverso, DJ Set con Misk, direttamente appunto da qui, Radio Onda Rossa. Maggiori informazioni le trovate sul sito www.altroverso.net. Adesso ascoltiamo Nick Turner con Inner Visions, remixato da Jibali su Turquoise Blue. We'll be right back. veramente grande Giba Lee che remixa questa Inner Visions di Nick Turner su Turquoise Blue Records. Vi ricordo che Altro Verso andrà avanti fino alle 6 di domani mattina con le migliori selezioni di musica elettronica underground. Insomma, sarò qui ad allietarvi con la migliore musica. Vi ricordo anche che dalle ore 24 all'una ci sarà il DJ set esclusivo per Altro Verso della Vision Cast Records, la label inglese che insomma ci ha così donato questo DJ set per farlo ascoltare in anteprima proprio degli ascoltatori di Roma e provincia, gli ascoltatori di Altro Verso e di Radio Onda Rossa. Poi dalle ore 1 fino alle 5 invece andremo avanti con le migliori selezioni underground e poi dalle 5 alle 6 in chiusura con la zona chill out per rilassarsi. Tutto ciò solo qui sugli 87.900 in FM oppure su ondarossa.it o altrimenti su altroverso.net, la web radio ufficiale di questa trasmissione. Ascoltiamo adesso Philip Butter con Good For Nothing su IK Records. Philip Butter con Good For Nothing su High Grade Records. Velocemente ascoltiamo adesso Mario Più con I Am Here, remixato da Doomwork su Fahrenheit Music. sempre all'ascolto di Altro Verso, questo era Mario Più su Fahrenheit Music. Adesso ascoltiamo Legau sulla Trapez Records, l'ultima novità della settimana. Si chiama Insane ed è remixato da Frank Sonic, e questa è la versione Big Room Remix.